Mind Rap presenta questo 2011, il CD ribelle. Come on baby, come on! Ribelle stampato, come che non ti stai preparando? Ribelle può essere in agguato, si lascerà senza fiato, potrebbe uscire in modo improvvisato, il colpo lì potrebbe rimanere incantato, molti dicono di averlo già fissato, ma casa tua non è ancora arrivato, di per averlo l'ho acquistato, ma sempre ribelle, se no io l'ho intrappolato, ti ho detto una tavola e l'ho incantato, adesso vuole essere liberato, lo farò prima che la polizia faccia un mandato, e prima che lo venga a sapere lo stato, e se mi imprigiono non mi darò per malato, odio essere ingabbiato, ma da quando ribelle sono ancora più incantato, amore perso mi ha calmato, questo padre deve essere ascoltato, e a sua volta verrà raccontato, perché ribelle mi ha fulminato. No, perché ribelle sta per uscire, sta per uscire!